questi amori che durano lo spazio di una sera, fra cerette e telefoni, il whisky è una chimera, queste strade che portano ai ricordi del passato, nelle lacrime perse, un sogno immaginato. Nelle notti di luna, con il fuoco nel camino, con le nuvole sparse in questa valle del destino, coi tuoi occhi che guardano dal vuoto di una foto, con le rine del tempo, un vecchio mangiafuoco. Quando anche il tempo si perde e si arena, giochi di bimba, luci di un crayon, su questa ruota di mille colori va. E i ricordi ritornano da un posto ormai lontano, dai messaggi perduti nelle pieghe del passato. Tu sarai sempre l'unica qui chiusa nel mio cuore, a cantare le storie e le pene di un amore.